Maria plena, Dominus tecum, Virgo serena. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, Virgo serena. Verde pina de vos nasque veramen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, Virgo serena. Grazie aure tire tensens. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, Virgo serena. Virge stan dolorosa per la morte del figlio Roma questo toglio io sa quando resuscita. A vos fare via Viver se vos demostrar. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, Virgo serena. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, Virgo serena. Per nos